nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentrovati, come state? Eccoci di nuovo a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. E prima di cominciare la nostra puntata, vi ricordo quello che è il nostro mantra, perché è bene non dimenticare che il mantra di questa trasmissione è che il multitasking è una fregatura. È bene ricordarselo ogni domenica, quando dovremmo rilassarci e invece magari infiliamo miliardi di cose dentro e cerchiamo anche di farle bene, tutte esattamente come gli altri giorni della settimana. Ma oggi mi pare giusto ricordare un altro tema di cui abbiamo parlato domenica scorsa. I fatti di Colonia non ce li siamo dimenticati e sarà bene non dimenticarceli, perché costituiscono uno spartiacque, un prima e un dopo. Quello che è successo il 31 dicembre a Colonia, con centinaia di donne molestate da un migliaio di uomini, secondo la polizia tedesca, medio orientali, nordafricani, è un tema che ci ha accompagnato giustamente in tutte queste settimane. Ricorderete che vi avevo raccontato di aver scritto sul Messaggero, di averlo lanciato sulle colonne del quotidiano romano, una proposta, andare tutte a Colonia, ma non per fare passerella o per quei gesti simbolici importanti, ma che poi lasciano il tempo che trovano. Il tutte a Colonia è qualcosa che vuole significare: guardate che ci siamo accorti tutte di quanto sia importante non dimenticare quanto è accaduto il 31 dicembre in varie città, non lasciamo cadere la cosa, pensiamoci, troviamo anche delle soluzioni. Bene, l'hashtag Tutte a Colonia è stato una specie di elemento di accompagnamento di queste settimane. Su Twitter c'è stata una grande partecipazione, ne hanno parlato anche altri quotidiani e io insieme ad altre donne autorevoli e ben più autorevoli di me stiamo cercando di lavorare proprio perché questo tutte a Colonia non si risolva appunto in una passeggiata pure simbolicamente importante nella città tedesca, ma abbia un senso. Perché il 4 febbraio? Perché è il primo giorno del carnevale di Colonia e tradizionalmente, da sempre, è il giorno in cui si mobilitano tutte le donne tedesche che arrivano dalle altre città della Germania. Quest'anno, ovviamente, il 4 febbraio assume un'importanza, un rilievo del tutto diverso e quindi io continuerò a ricordarvi tutte a Colonia ogni domenica e spero che almeno su Twitter, sui social, voi sosteniate e diciate anche se siete d'accordo o non d'accordo con la proposta che abbiamo lanciato sul Messaggero ormai appunto parecchi giorni fa. Ricorderete che nelle ultime puntate abbiamo parlato di toxic workers. Che cosa sono? Che cosa sono i lavoratori tossici? Secondo lo studio pubblicato dalla Harvard Business Review, sono quei colleghi magari bravissimi, magari competenti nel loro settore, ma narcisi, invidiosi, acidi, incapaci quindi di creare e sviluppare rapporti personali, di fare squadra, di rendere piacevole lavorare insieme. E che cosa succede se il toxic worker non è un qualsiasi collega, ma addirittura il nostro capo? C'è un altro studio di cui vi vorrei parlare e che tratteremo, approfondiremo nella puntata di oggi. È uno studio che è stato pubblicato dall'Huffington Post degli Stati Uniti ed è curato dal professor Travis Bradbury, autore del bestseller Emotional Intelligence. Il professor Bradbury nota che spesso i grandi manager, i capi, si lamentano perché i migliori tra i loro dipendenti li mollano, se ne vanno e spesso attribuiscono questo continuo ricambio dei migliori tra loro alle più diverse ragioni: se n'è andato perché aveva problemi familiari, se n'è andato perché voleva cambiare città, se n'è andato perché gli hanno dato di più. Ignorano, fanno finta di non sapere che spesso questi talenti, i più bravi, lasciano perché non sopportano più di lavorare con loro. E allora proprio di questo parleremo anche oggi con gli esperti che seguiranno. Parleremo di che cosa fare, che cosa succede quando i migliori talenti vanno via dall'azienda e un capo non capisce che se ne vanno via per colpa sua. Ma intanto è arrivato il momento di colloquiare con l'agente provocatore della settimana. L'agente provocatore che questa settimana raddoppia, sono due. E allora il momento dell'agente provocatore, che è appunto questa volta raddoppiato. Hanno inventato Zelling, hanno inventato la smemoranda, hanno raccolto le battute delle formiche e scoperto i migliori talenti, ma a differenza dei capi che se li fanno sfuggire, loro con tanti grandi talenti sono rimasti in contatto. Stiamo parlando di Gino e Michele, coppia indissolubile della satira che è approdata per la prima volta sulla scena teatrale con Passati col Rosso. Passati col Rosso è una trasgressione. Buona domenica Gino, buona domenica. Grazie, Michele. Buona domenica a voi. Sarete in scena, sarete in scena a Novara e a Rimini il 20-22 gennaio. Che significa Passati col Rosso? Il titolo della nostra prima trasmissione radio popolare, cioè noi abbiamo cominciato con 40 anni fa appunto con una trasmissione che si chiamava Passati col Rosso, che come dicevi tu aveva questo sapore un po' di trasgressione, insomma, di controcorrente, eccetera. E allora, festeggiando questo anniversario, ci sembrava carino tornare da dove eravamo partiti. Ecco, la voce che avete sentito appartiene a, perché qui siamo in radio, e ora invece, Michele, io citavo prima il fatto che voi siete stati dei grandissimi talent scout, avete scoperto i più grandi talenti e siete riusciti a lavorare con loro tantissimo. Prima, nella parte iniziale di questa puntata, io facevo riferimento a uno studio americano secondo il quale spesso i migliori talenti lasciano le aziende perché non sopportano i capi che non li gratificano, non dicono mai bravi. Qual è il trucco, no? Soprattutto in un mondo poi di creativi, di artisti, di mantenere i talenti e la collaborazione con loro? Beh, intanto non è detto che tutti i talenti restino nella casa d'origine, però intanto la prima cosa, la più importante è mantenere degli ottimi rapporti comunque, anche quando le strade necessariamente si dividono. Per voi esempio, con chi non li avete mantenuti buoni? No, rapporti buoni con tutti, a volte... le storie, anche dopo tanti anni di collaborazione, necessariamente cambiano, no? Ognuno sceglie strade diverse. Per esempio con Paolo Rossi in teatro abbiamo lavorato per tantissimi anni, poi le nostre strade si sono divise, ma siamo rimasti amici, e adesso con Passati col Rosso abbiamo chiesto a lui di farci da regia, mentre noi per anni abbiamo così spinto lui sul palco. Lui questa volta ha spinto lui noi sul palco. Quindi, come vedi, le cose ritornano tutte. Poi il mondo dello spettacolo e anche quello della comunicazione, come sai, è difficile rompere definitivamente. Poi il mondo è piccolo e ci si ritrova. Dunque, voi siete nati, cresciuti nel Milano che ha vissuto tante tappe diverse. Avete vissuto la Milano degli anni di piombo, la Milano da bere, la Milano di Tangentopoli. Come definireste? 68 anche. Siamo partiti da lì. E la città, la Milano di oggi, se doveste trovare una definizione, come la chiamereste? Da frequentare. da frequentare per poi decidere se mettersi insieme o lasciarla. Da frequentare perché trovo che sia in uno dei suoi momenti più interessanti di questi appunto 60 anni che abbiamo vissuto insieme. Raramente è stata così, così charmante, insomma, diciamo. Così vivace, così bella. Sì, sì. E invece, Michele? Sì, no, lo diciamo anche in spettacolo. Ci sono dei, dei momenti, cioè in tutto lo spettacolo le nostre letture girano per 30 anni di tempo passato e sono assolutamente attuali, no? Forse i pezzi più meno attuali, che però possono essere divertenti proprio perché letti in chiave contraria, sono i pezzi che parlano di Milano, strettamente di Milano, come Il sogno all'incontrario, eccetera, perché le utopie che 20 anni fa ci sembravano irraggiungibili, almeno in parte si sono realizzate. Caspita. Magari non c'è l'aria pulita, ma c'è una Milano più vivibile, ecco. Beh, questo è parecchio consolatorio. Allora, nel salutarci, abbiamo parlato di Milano, non posso che chiedervi. Allora, Gino, andrai a votare alle primarie e per chi, se ci vai? Non sono residente a Milano. E quindi niente. Michele? Sì, andrò a votare alle primarie e sto facendomi un'idea lentamente di chi andare a, di chi votare. Devo dire che stimo tutte e tre, i tre candidati che conosco. E sono abbastanza indeciso proprio perché sono tre persone che ognuno ha delle caratteristiche positive per governare Milano. Credo che il più adatto in questo momento possa essere Sala, però stimo molto anche gli altri, per cui mi auguro che comunque chi vinca possa coinvolgere gli altri nel governo della città. Anch'io, pur non votando, mi schiero per Sala, via. Ah, allora avete rotto l'indugio. Va bene. Va bene, grazie Gino Michele, li trovate in teatro a Novara il 20 gennaio e a Rimini il 22. Buona domenica a tutti e due. Grazie, buona domenica a voi. Nessuna è perfetta. Eccoci, anzi rieccoci. A Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, dedicato alle donne, dedicato ai temi del lavoro e che a questo punto ha, come sempre, la sua Sunday Girl. La nostra Sunday Girl questa domenica è Laura Morante. Buona domenica, buona domenica. Io sono chiamare girl è già... non è male, siamo girl forever. Io sono andata a vedere A Solo, che è il film del quale Laura Morante firma la regia e della del quale è anche protagonista, e mi è piaciuto moltissimo. A Solo parla di una cinquantenne che è un po' in crisi su tutti i fronti. Da quello degli anni che passano e quindi del sentirsi ovviamente un po' meno desiderata dagli uomini, a quello dei rapporti con i figli, c'è una scena in cui tutti i figli la prendono in giro e poi in realtà è una proiezione della scarsa autostima che la stessa Flavia ha. Ma insomma non voglio raccontare tutto, lasciamolo raccontare alla regista e protagonista. Sì, al centro della narrazione c'è questo personaggio, di questa donna, Flavia, che ha da sempre un problema di autostima, cioè la sua percezione di sé dipende dalla percezione che gli altri hanno di lei, e quindi questa dipendenza crea poi un cortocircuito per cui mano a mano che gli anni passano e che quindi la percezione che gli altri hanno di lei diciamo è meno gratificante, diciamo meno per lei, quindi mano a mano il livello d'autostima precipita, e quindi è una donna che deve recuperare l'autostima attraverso una percezione di sé indipendente da quella che hanno gli altri, in particolare gli uomini. Ha una condizione di incertezza un po' su tutto, perché sentimentalmente viene da due divorzi e da una lunga relazione con un francese che però poi non ha lasciato la moglie. Ha due figli nati dai due diversi matrimoni, due figli maschi che la proteggono ma un po' anche la prendono in giro. Continua a essere legata ai suoi ex mariti e ha anche delle insicurezze sul lavoro, che non è cosa da poco a più di 50 anni. Sì, lei diciamo si è costruita quella che lei probabilmente ha ritenuto potesse fungere da rete di protezione, quindi ha conservato rapporti con gli ex mariti, poi ha instaurato rapporti anche molto cordiali con le mogli degli ex mariti, ha diverse amiche, di cui una piuttosto dispotica, oltre che molto problematica, quasi come lei, ma in altro modo. E questa rete di protezione invece poi è diventata una gabbia, e da questa gabbia lei tenta di uscire attraverso una presa di coscienza accompagnata dalla sua analista, la dottoressa Grunewald, che è il personaggio... Una strepitosa Piera degli Esposti. Sì. Strepitosa, sì. Sì, sì, sì, sì. Molte cinquantenni incontrano a metà della loro vita il baratro, no, della solitudine, perché magari un matrimonio è finito, a questo punto è molto complicato magari reinnamorarsi o trovare un uomo che si innamori di noi, e c'è questa ansia del vuoto. Il lavoro magari finisce oppure si va in pensione, i figli sono cresciuti, e c'è questa ansia di come riempire gli anni che verranno. La storia di Flavia è un po' anche questa. Dunque il lavoro in realtà per il momento lei non viene licenziata, viene semplicemente spostata, perché lei cura i rapporti con la clientela in un grande albergo. A un certo punto l'albergo decide che il personale a diretto contatto con il pubblico deve essere più giovane, e quindi lei viene spostata in un ufficio, ma è chiaro che questa cosa è anche più che essere un problema lavorativo, diventa un ulteriore problema per la percezione che lei ha di sé, per la propria autostima, e quindi è un ulteriore passo appunto verso il baratro. Ma questa solitudine, d'altronde la dottoressa a un certo punto glielo dice, glielo fa notare, le dice: ma lei, parlandomi della solitudine, mi parla di un sentimento, di una condizione? E Flavia risponde: di una condizione. Poi ci pensa e dice: e anche di un sentimento. E la dottoressa le risponde: ma lei potrebbe essere sola e non sentirsi sola, oppure non essere sola e sentirsi sola. Ecco, questo è un po' uno dei temi, no? È quello della solitudine, che non necessariamente è una condizione diciamo di così negativa. Tutto dipende dalla percezione che se ne ha, quindi lei deve lavorare su questo, come molte di noi, cioè è molto frequente il caso di donne anche intelligenti, dotate, piene di virtù, ma che hanno un continuo bisogno di conferme, perché senza le conferme si sentono perdute. C'è una bellissima scena del film in cui la dottoressa Piera degli Esposti, la psicanalista, fa ripercorrere la vita sentimentale di Flavia, dunque la protagonista, interpretata da Laura Morante, con tutte le foto degli ex, dei fidanzati, eccetera, e quanto è rimasta single. Quanto è rimasta single in tutta la sua vita, Flavia? Beh, poco, ha sempre vissuto in coppia, poi con i figli che poi se ne sono andati uno dopo l'altro di casa, e quindi affronta appunto la vita da single per la prima volta in realtà a più di 50 anni, quindi è una, poi lei appunto è un personaggio particolarmente poco dotato, cioè particolarmente poco autonomo, non è mai riuscita a prendere la patente nonostante ci provi da 30 anni, quindi è un caso un po'... sembrerebbe un caso quasi disperato, poi vedremo che forse in fondo non lo è, però lei si percepisce così, lei cerca disperatamente conferme, appoggio, sostegno fuori da sé, e invece la dottoressa, come fa un analista, la induce a cercare questa forza dentro di sé. È un film, è una commedia molto divertente, con attori veramente molto molto bravi, ne ricordo alcuni: Francesco Pannofino, Gigio Alberti, Giusy che è la compagna di uno degli ex mariti, che è interpretata da Emanuela Grimalda, Carolina Crescentini e anche sua figlia, anche la figlia di Laura, certo. Morante, sì, bravissima, sì. Devo dire, è una commedia che fa piacere, che in un pomeriggio di domenica io trovo che sia divertente, ma di quei divertimenti che poi lasciano qualcosa. Senta, sì, Laura Morante. Voluto scherzare proprio su un tema che ha una certa gravità, ma io penso che è proprio quando il tema ha una certa gravità che è bello scherzarci anche un po' sopra. Ecco, ci sono temi di gravità assoluta come quelli che da qualche settimana affrontiamo, ne abbiamo parlato anche qui a Nessuna è Perfetta. Mi riferisco a quanto è successo il 31 dicembre a Colonia e anche in altri paesi. Noi abbiamo lanciato una proposta, il Tutte a Colonia, un hashtag su Twitter, ma anche un modo, possibilmente non solo retorico e simbolico, di dire: guardate che non è una cosa che riguardi solo le tedesche o quelle che hanno subito molestie a Salisburgo, è una cosa che riguarda tutti, uomini e donne, ed è uno spartiacque rispetto al prima o al dopo. Secondo lei, perché attrici, intellettuali di sinistra sono state zitte nei giorni immediatamente successivi alla notizia? Io non lo so, in realtà io ho sentito molti commenti invece, però non so se lei parla di... Io ho letto sui giornali, ho sentito commenti, non credo siano state tutte zitte, ma quello che però è necessario fare, perché ovviamente la paura è che immediatamente diventi un pretesto per un discrimine che già, essendo poi la Germania impegnata in modo molto più consistente di tutti gli altri stati europei nell'accoglienza, quindi può diventare una cosa, un boomerang. Quelli che, sì, insomma, il pericolo è quello di dire: siccome sono, questo è accaduto perché ci sono gli immigrati, i nordafricani, i musulmani, che quindi bisogna chiudere le frontiere, cioè il rischio, forse la ragione che ha lasciato, prima di tutto perché le indagini non sono ancora chiuse, quindi non sappiamo esattamente come, perché e quanta connivenza c'è stata da parte delle forze di polizia, perché questa cosa è stata sottovalutata quando c'era stata una chiamata, diciamo, perché questi uomini facessero questa, insomma, certo, però per fare questa aggressione. Possiamo quindi dire che il rapporto tra uomini e donne è uno dei nuclei centrali se vogliamo far sì che l'integrazione sia un successo, perché se non si capisce che è fondamentale, è un nucleo centrale per qualunque paese che voglia dirsi civile, non esiste qualunque forma di discriminazione è una forma di inciviltà. Quindi, certo, io mi è capitato varie volte di dire c'è bisogno di una nuova ondata di femminismo, ogni tanto vengo presa in giro per questa cosa, perché dice: ah, il femminismo con i suoi eccessi. Dico sì, magari forse senza certi eccessi, quegli eccessi. Però forse eccessi, abbiamo avuto vent'anni in cui ci siamo dimenticati che le conquiste vanno mantenute. Ma certo, noi siamo tutti, dobbiamo tutte qualcosa di fondamentale al movimento femminista, quindi anche con i suoi eccessi, però è stato importantissimo, quindi secondo me, poi piano piano, per ragioni che adesso non sto qui a spiegare alla radio, che forse non sono nemmeno in grado di spiegare io, però per ragioni, questa eredità mano a mano è stata dissipata ed è una cosa, secondo me, gravissima, va recuperata questa. È un po' lo spirito per cui sulle pagine del Messaggero ho proposto il tutte a Colonia e non è retorica, è proprio per dire, guardate che passa anche da qui l'idea di difendere quello abbiamo. Ma il, diciamo che la misoginia è come il razzismo, un frammento di questo specchio deformante, direbbe Andersen, è in ognuno di noi e bisogna fare di tutto per espellerlo. Quando uno va, parlo del razzismo come parlo della misoginia, perché secondo me appartengono, è la stessa cosa, insomma sono due cose diverse, declinate in modo diverso, ma è la stessa, così fanno parte della stessa famiglia. Quando noi andiamo in un paese straniero, andiamo che ne so, in Austria, e il cameriere di un ristorante ci tratta male, noi usciamo dicendo: gli austriaci sono insopportabili. Non certo. Diciamo questo cameriere certo. È insopportabile. Se la stessa cosa avviene nel nostro paese, diciamo semplicemente: questo cameriere è insopportabile. Ma già questo è un piccolo esempio per dire che nessuno è immune. Dobbiamo difenderci con le unghie e con i denti dalla tendenza difficilissima da contrastare alla misoginia, discriminazioni razziste. Dobbiamo sorvegliarci costantemente. Posso chiederle se virtualmente allora sarà così? Sarà con noi a Colonia? Certo. Allora, grazie, alla regista e all'interprete di Assolo, ripeto, un film con un pensiero e con molti sorrisi, e grazie a Laura Morante che virtualmente è con noi, tutte a Colonia. Buona domenica. Grazie, arrivederci. Grazie. Grazie. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18:30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Chiedimi se sono felice. Tutte le domeniche a mezzogiorno, le 12. Chiedimi se sono felice, che cosa vuol dire? Il mondo dalla prospettiva del cane, perché uno si deve chiedere se il proprio cane è felice. Quindi intervisteremo degli esperti, avremo degli ospiti, parleremo di alimentazione, psicologia, benessere del cane, la sua educazione. Qualunque cosa, di telepatia. E per tutte le vostre domande andate sulla nostra pagina sul sito di Radio 24 o scriveteci una mail a chiedimi se sono felice @radio24.it. Rosita Celentano e Angelo Vaira ogni domenica alle 12 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, e come sempre questo è il momento della domanda della settimana, domanda che tutte voi potete inviarci scrivendo all'indirizzo mail nessunaeperfetta@radio24.it. Potete scriverci su Twitter usando l'hashtag Nessuna è perfetta o sulla nostra pagina Facebook, raccontarci i vostri problemi di lavoro. Quelli di oggi sono quelli che ci racconta Paola. Lavoro da diversi anni come dirigente di un grande istituto bancario. È stato un percorso lungo, ma fino a un certo punto ne è valsa la pena, perché capi e collaboratori hanno riconosciuto in me talento e capacità di leadership. Oggi però è arrivato il momento di cambiare. Dopo tanti anni non mi riconosco più nei valori dell'azienda e soprattutto nel capo che la rappresenta. Ci sono logiche troppo radicate, non mi sento valorizzata in maniera adeguata e gli sforzi che mi vengono richiesti sono sempre maggiori in cambio di poco o nulla. Insomma, vorrei guardarmi altrove, anche se so che il mio capo, per primo, non comprenderebbe le mie ragioni e si chiederebbe chi me lo fa fare, visto che ho una buona posizione e un buon stipendio. Non capisce che, in fin dei conti, è proprio lui la causa del fatto che me ne voglio andare. Sto facendo la scelta giusta o mi conviene aspettare e vedere magari se ne va lui? E allora benvenuto ad Alessio Streccioni, responsabile selezione, formazione e sviluppo di Decathlon Italia. Buona domenica. Buona domenica a voi. Dalla lettera della nostra ascoltatrice emerge un fatto chiaro. Nonostante le soddisfazioni raggiunte, il capo non è più lei non è più in sintonia col capo. E citavo prima uno studio del professor Travis Bradbury pubblicato dal Huffington Post degli Stati Uniti, secondo il quale ci sono 9 errori che un capo dovrebbe evitare. Glieli elenco rapidamente: caricare un dipendente di troppo lavoro, non riconoscere il prezioso apporto di un dipendente e non premiare il lavoro ben fatto, non preoccuparsi del lato anche umano della vita dei dipendenti, non onorare le promesse fatte, assumere o promuovere le persone sbagliate, non lasciare che le persone seguano le loro passioni, non sottolineare le abilità di un dipendente, non stimolarne la creatività e non stimolare un proprio dipendente sul piano intellettuale. Alessio Streccioni, di queste 9 colpe, di questi 9 errori che un capo dovrebbe evitare, lei quali vede, diciamo, più spesso? Quali ha visto nella sua carriera di responsabile della selezione e formazione? Beh, sicuramente più andiamo avanti, più il fatto di dare il giusto carico di lavoro a ciascuno della propria equipe è l'errore in cui è la difficoltà maggiore. Le produttività si alzano e la difficoltà dei leader locali ma anche centrali è sempre più quella di riuscire a ben bilanciare gli obiettivi aziendali, anche quelli di produttività, con i reali strumenti che ha ciascun collaboratore per poter svolgere in maniera qualitativa e soddisfacente il proprio mestiere. Perché spesso uno ha un dipendente molto bravo, allora per questo lo carica di lavoro in maniera pesantissima senza accorgersi che così di fatto lo spreme come un limone e alla fine questo non potrà dare granché. Assolutamente, questo è l'errore che a mio avviso è quello che poi in questi anni si sta ripetendo in maniera seriale. Sicuramente tutto parte per me dall'ascolto, dalla conoscenza di ogni collaboratore, anche umana, sicuramente riuscire a capire quali sono gli obiettivi, le passioni, ci mette un po' dentro tutti e 9 gli errori che sono stati citati, ma che secondo me, mi permetto di dire, che sono tutti riconducibili alla conoscenza del proprio collaboratore, delle sue esigenze, delle sue risorse, dei suoi obiettivi. Ecco, solo tramite l'ascolto e la conoscenza dei propri collaboratori si ha l'opportunità di cercare di evitare al massimo gli errori, poi evitarli totalmente credo che sia impossibile. Certo. Senta, che consiglio darebbe all'ascoltatrice Paola che dice ma insomma a questo punto me ne vado perché evidentemente il suo capo di questi 9 errori ne ha commessi tutti? Beh, sicuramente tutti hanno un capo, immagino sì. Anche il suo di capo, e quindi io credo che ognuno di noi lavora per ovviamente per la propria azienda, per se stesso, anche per il leader di quel momento, il capo di quel momento, quindi il consiglio principale è di rivolgersi all'azienda, ma in maniera molto autentica, molto schietta anche con il proprio capo, di avere l'opportunità di avere un confronto con un terzo, una persona superiore, chi sta sopra il proprio capo, per capire se veramente c'è un'incomprensione o se effettivamente sta andando in una direzione lei sbagliata. Quindi la prima cosa è quella, la seconda è ricercare la soddisfazione e il riconoscimento dei propri talenti. Quindi nel momento in cui non si sente più apprezzata in maniera adeguata, è bene che guardare fuori. Sì. Allora, abbiamo come diciamo tradizione anche il punto di vista di una manager donna, Elena David, che è amministratore delegato di una hotel and resort. Benvenuta, buona domenica. Buona domenica a tutti. Citavamo questo studio del professore americano Travis Bradbury, i 9 errori che i capi spesso commettono e poi si lamentano se i migliori talenti se ne vanno. Qualcuno di questi errori, Elena David, l'ha commesso pure lei? Beh, sicuramente nessuna è perfetta. Sì, appunto. È il titolo della trasmissione, quindi sicuramente qualcuno l'avrò fatto. Però devo dire che mi sono molto ritrovata in questa analisi e condivido la gravità di alcuni errori. In particolare, per esempio, penso che non riconoscere gratificando anche con complimenti e riconoscimenti in modo pubblico il lavoro ben fatto sia per esempio uno degli errori, cioè la mancanza di gratificazione, che non è necessariamente solo quella economica, è spesso un fattore determinante nel demotivare, diciamo, le persone che lavorano con te. Così come trovo molto centrato il punto relativo alla mancanza di attenzione a quella che sono la sfera delle persone. Se posso citare un esempio, di recente mi è capitato di avere un collaboratore che io considero bravo, talentuoso, che era, come capita nel nostro settore dell'hotelleria, fuori sede, cioè lavorava lontano da quella che è la sua, diciamo, origine base, dove aveva la famiglia. E a un certo punto io ho saputo da lui che la moglie attendeva 2 gemelli, quindi loro come famiglia avrebbero avuto questi 2 gemelli. Ecco, immediatamente ho pensato se all'interno dell'azienda vi fossero le condizioni, senza che lui l'avesse chiesto, peraltro una persona molto fidelizzata, avesse chiesto di poter essere avvicinato, ma io ho pensato che se l'azienda aveva le possibilità di farlo, era meglio farlo, perché questo gli avrebbe sicuramente consentito di lavorare con maggiore serenità e dare quindi il meglio all'azienda rispetto a quella che sarebbe stata una situazione di lontananza, dove in una famiglia con 2 gemelli possiamo essere. Quindi secondo me, per esempio, anche questo è un altro degli errori, ecco, quello di escludere la sfera della persona e concentrarsi il lato privato e concentrarsi soltanto sulla qualità. Un altro aspetto importante è il mantenimento delle promesse, no? Se un dipendente ha ricevuto la promessa di un avanzamento di carriera, una promozione, un trasferimento e poi questo non viene mantenuto, si incrina il rapporto di fiducia in un capo, no? Assolutamente. Poi diciamo che io penso che ottieni quello che ricevi, quindi ottieni rispetto, ottieni fiducia se ti comporti in maniera coerente a questo. Anche qui cito un'esperienza personale che ho avuto modo di vivere. Laddove un dipendente mi ha chiesto che a termine avrebbe avuto bisogno, anche in questo caso parlo di spostamenti perché nel nostro settore sono uno dei valori più importanti, di poter essere posizionato in un certo luogo, anche qui io ho detto oggi non ci sono le condizioni, ma non appena ci saranno lo faremo, e in effetti così è stato. E questo accade anche per la responsabilità, non soltanto per gli aspetti, come dire, logistici, ma anche per gli aspetti di responsabilità, cioè promettere che farai tesoro della disponibilità in termini di responsabilità che quella persona ti offre e mettere questo in esecuzione, cioè renderlo concreto, è sicuramente un aspetto quindi importante. Quindi è un capo quello che mantiene quello che promette. Io vi ringrazio Alessio Straccioni, responsabile selezione, formazione e sviluppo di Decathlon Italia, che è stato con noi. Grazie Straccioni, alla prossima, e ringrazio Elena David, amministratore delegato di una hotel e resort. Buona domenica a entrambi. Buona domenica. Buona domenica a tutti. Grazie. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuno è Perfetto, il programma dell'altra domenica di Radio 24, ed è il momento dei consigli della nostra coach Carla Ciani. Buona domenica, bentornata a Nessuno è Perfetta. Buona domenica a tutti. Dunque, per quanto concerne il destino professionale di Paola, il suo bisogno di lasciare l'azienda non nasce dal contesto quanto dalla delusione rispetto al suo capo, che evidentemente ha commesso uno o più degli errori che ho citato prima nello studio del professor Travis Bradbury. I 9 errori che un capo commette, poi si stupisce se i talenti se ne vanno. Allora, se viene a mancare il senso di appartenenza, è bene valutare una strada alternativa o è meglio aspettare che il capo se ne vada? Assunto che è sempre interessante valutare una strada alternativa per aggiornamento, per comprendere come si muove il mercato, eccetera, ma in questo caso io credo che innanzitutto siano da valutare almeno 3 aspetti. Allora, bisogna attentamente comprendere il significato di senso di appartenenza. Le aziende sono, come sappiamo, in un continuo cambiamento, un cambiamento imposto dall'evoluzione del mercato, dai contesti competitivi, riorganizzazioni dettate dalla necessità di contenimento dei costi, di ottimizzazione, eccetera, e spesso io mi sento dire che è venuto a mancare il senso di appartenenza, ma in realtà spesso si tratta invece di una difficoltà di elaborare il cambiamento, quindi più di mancanza di senso di appartenenza viene a mancare quella specie di comfort zone che si era creata nel tempo. Beh, ma perché magari tutti i colleghi con i quali uno è abituato a lavorare sono andati via, e quelli nuovi rappresentano una fatica, no? Le uscite per diversi motivi, la delocalizzazione, no? Quindi in realtà quello che ci manca non è il senso di appartenenza, ma è quella sensazione di sicurezza e di stabilità che e si erano generate nel tempo e che in qualche modo erano garantite da una continuità e dal non cambiamento. In questo caso, se le cose stessero così per Paola, se non fosse tanto un rapporto col capo quanto il fatto di ritrovarsi in un'azienda che è cambiata mentre lei apparteneva a un'altra stagione, in questo caso è meglio forzarsi e cercare di convivere con questa novità, o potendo è meglio andarsene? Convivere è una condizione un po' insomma, no, non deve essere una condizione costrittiva, deve fare un'analisi oggettiva sulla situazione aziendale, quindi capire quanto lei riesce a sostenere e a condividere le politiche aziendali, il cambiamento che l'azienda ha attivato e quindi il modo in cui ora l'azienda agisce nel contesto commerciale, nel contesto sociale. E deve capire se appunto è tutto l'ambito aziendale che per lei non è più sostenibile, o se invece è davvero il comportamento del capo che si discosta in modo rilevante da quella che è ora la visione aziendale. Quindi se è un problema di adeguarsi lei, o se è invece il capo che, appunto, commettendo uno degli errori segnalati prima, per esempio non mantenendo le promesse o semplicemente non stimolando quelle che sono le creatività e le passioni, per esempio capita spesso. Anche il capo è una risorsa, e anche il capo può avere difficoltà a vivere un cambiamento essendo stato abituato pertanto a un certo tipo di modello comportamentale. Certo. Quanto conta poi alla fine la coerenza nelle scelte professionali? Tantissimo, moltissimo. È una connessione, come dire, salda tra quello che comunichiamo e i comportamenti che adottiamo, e determina la credibilità. E se noi siamo credibili, siamo sempre in grado di generare delle relazioni profittevoli, anche in contesti difficili. Per esempio Paola che dice: io ho sempre lavorato bene, mi sono sempre sentita a mio agio, e ora invece non mi ritrovo più nei valori che questa azienda esprime, ma soprattutto nei valori che il capo sembra sostenere, qual è la coerenza, quale sarebbe la coerenza del suo comportamento? La coerenza comportamentale sarebbe, cioè il comportamento che dovrebbe avere è quello di, comprendendo che è il capo che non attiva comportamenti coerenti, essere lei coerente con ciò che lei stessa dichiara. Quindi se è una persona di talento, se ha una buona leadership, se ha avuto riconoscimento del suo valore, deve fare, insomma, osare un attimo di più, accedere a quelle aree di ascolto aziendale, magari anche al capo del suo capo, e evidenziare quali possono essere le criticità, quindi dare un contributo attivo, coerente con quello che lei stessa dichiara, no? Di essere. Ecco, c'è un ricorrente suggerimento, viene dalla nostra coach Carla Ciani, ma veniva prima anche dal nostro esperto delle risorse umane di Decathlon, ovvero se il capo diretto non ha rispetto a voi mantenuto le promesse, o comunque c'è un contrasto tra voi, andate da quello che è il capo del capo. Assolutamente. Che è una cosa che spesso le donne non osano fare, perché dice: non voglio scavalcarlo. Sì, ma anche gli uomini, tanto per a volte le donne di più, perché quando hanno un po' di paura, quando non si sentono sicure, stanno di più alle regole, no? È il modello gerarchico. Oggi le aziende, insomma, che sono davvero nel cambiamento e che si stanno evolvendo positivamente, addirittura chiedono delle valutazioni, come dire, a 360 gradi. Il collaboratore può aiutare il suo capo, ha, come dire, anche questo compito, perché quello che il capo percepisce essere la valutazione del suo collaboratore, se non c'è comunicazione, se non c'è un buon feedback, non sapremo mai, no? Così certo. Succede con i clienti esterni: se noi abbiamo una percezione del gradimento di un prodotto, finché non lo chiediamo al cliente o non attiviamo dei sistemi corretti di valutazione, non lo sappiamo, e così non abbiamo la possibilità di attivare dei percorsi. Dei Quindi Paola, andando a parlare col capo del suo capo, potrebbe fare anche un lavoro utile all'azienda, fornendo una conoscenza che magari al capo del capo manca. Assolutamente, dà un contributo di valore, deve farlo con un'analisi oggettiva, con poche compromissioni emotive, deve proprio farlo come compito in qualche modo assegnatole di contribuire al miglioramento della sua azienda. Bene, io ringrazio come sempre Carla Ciani, che è stata con noi anche questa domenica. Auguro a lei e a tutti voi un giorno di assoluto relax, possibilmente per chi non lavora, ovviamente, e comunque un giorno lontano dal multitasking, che, ricordatevelo, è una fregatura. Buona domenica. Assolutamente d'accordo. Buona domenica. Buona domenica. Grazie Maria.